Respiro. Domenica 14 febbraio, buongiorno, bentornati a Respiro, io sono Cristina Carpinelli, oggi vi porto subito a Verbania perché da domani inizia una particolare raccolta dell'umido in questo paese che è già fiore all'occhiello per la differenziata. Partiamo dal paese, ci siamo chiesti cosa dovranno fare i cittadini per fare questa innovativa raccolta dell'umido e soprattutto in che cosa si diversifica questa raccolta. Allora partiamo da qui. Abbiamo intervistato l'ingegner Giacomelli, che è amministratore unico di EPT, che è l'azienda, un'azienda di Bolzano, che ha inventato un sistema innovativo che si chiama Sitra. È un sistema per la raccolta dell'umido. Adesso sentirete in che cosa è innovativo. È un sistema che è già operativo da tempo a Bressanone e sta dando buoni risultati. Quindi da domani si parte anche con Verbania. Sentiamo allora l'ingegner Giacomelli. Io partirei proprio dal problema che abbiamo in casa per dire poi cosa adottiamo per risolvere questo problema. In casa abbiamo il problema dell'odore, dell'igiene e della praticità, e dall'altra parte abbiamo che anche quando il materiale viene raccolto ci siano dei contenitori nella strada che possono altrettanto essere igienici, non avere problemi di odore e soprattutto non dare elevate frequenze di raccolta e avere elevati costi, eccetera. Allora, il kit è composto nella sostanza di un trespolo denominato umideo che ha la funzione di sostenere un sacchetto di carta, una carta che in questo caso è una carta speciale, nel senso che di norma in casa si utilizzano dei secchielli di plastica con sacchetti di plastica per raccogliere organico. Questo tipo di sistema, quello tradizionale, è la negazione per la raccolta della plastica perché dell'organico, in quanto l'organico per essere raccolto bene, non avere problemi di odori, di igiene, deve essere raccolto in presenza di ossigeno. Quindi noi abbiamo adottato un sacchetto di carta che consente all'organico di rimanere sempre in condizioni ottimali e aerobiche. Questo sacchetto di carta viene sospeso su questo trespolo, garantendo quindi una perfetta aerazione sia sulla superficie perimetrale, sia sul fondo, molto importante, che nella parte superiore. Quindi all'utente che lo utilizza vede un trespolo di legno con un sacchetto sospeso. Ecco, ma questo sacchetto di carta è fatto di una carta particolare, nel senso che se io metto l'umido nella carta rischio poi magari di creare il buco. Ecco, questo è diciamo uno degli elementi fondamentali nella comunicazione che noi diciamo portiamo avanti quando facciamo le serate informative o diamo le istruzioni per l'uso, perché naturalmente chi ha fatto fino adesso esperienza della raccolta dell'organico ha avuto qualche problema, vuoi perché il sacchetto si rompeva, vuoi perché il sacchetto si biodegradava mentre raccoglieva l'organico e quindi gli rimaneva in mano. Questo è infatti uno degli elementi fondamentali, è stato quello di trovare a livello del mercato europeo una carta speciale che avesse elevate prestazioni meccaniche e fosse in grado di avere anche la capacità di sostenere grandi pesi e anche quando il rifiuto è umido. Nella sostanza questa carta è una carta naturale innanzitutto, una carta che può essere utilizzata anche per vendere alimenti, quindi anche nei negozi, e soprattutto ha delle fibre molto lunghe che sono tra di loro incrociate come fosse un tessuto. La carta normale che abbiamo in casa è una carta che ha le fibre parallele, queste sono incrociate, quindi è a tutti gli effetti un tessuto e una resistenza meccanica molto alta. Questo tipo di carta è traspirante come fosse un Gore-Tex, nel senso, in un senso l'aria entra e dà aerazione e condizioni ottimali all'organico, dall'altra parte i liquidi non fuoriescono da questa carta perché la molecola dell'acqua è più grande di quella dell'aria e quindi con questa fibra intrecciata non consente all'acqua di fuoriuscire, quindi è un sacchetto che traspira ma non fa uscire i liquidi, è un tessuto che quindi non si può tagliare o rompere se non incidendolo con un coltello, con qualcosa di molto appuntito. Ecco, e poi dalla casa ci si trasferisce all'esterno. E all'esterno Sitra cosa prevede? Cioè dove mettiamo l'umido? Il diciamo la soluzione globale del sistema SITRA proprio è quella di garantire un percorso, diciamo, del rifiuto organico, di trasformazione del rifiuto organico in condizioni aerobiche. Cioè tutti i cassonetti che vediamo in giro sono cassonetti che sono completamente chiusi, sono come una pentola a pressione, mentre il cassonetto che noi abbiamo individuato è un cassonetto che ha circa 360 fori sui fianchi del cassonetto, ha una griglia che divide il fondo, una griglia quindi forata che consente all'organico di essere raccolto bene, e poi soprattutto nel cassonetto aerato introduciamo anche qui di nuovo la carta, una fodera di carta speciale, la stessa carta che noi utilizziamo per la famiglia. Il risultato è che l'organico perde anche quasi il 20-25% in peso, a favore quindi dei costi anche di smaltimento, perché l'acqua presente nell'organico evapora sia in casa nel sacchetto sia nel cassonetto in strada. Paradossalmente in Italia si fa la raccolta dell'organico 2, 3, anche 4 volte a settimana, perché ci sono problemi nei cassonetti che non sono idonei perché sono chiusi. E con questo cassonetto a Bressanone dal 2000 in poi raccogliamo la carta, raccogliamo l'organico una volta alla settimana, proprio perché non abbiamo problemi di odori, e questo abbatte drasticamente i costi, ma soprattutto più lungo il tempo di stoccaggio dell'organico nel cassonetto, più perdiamo acqua per evaporazione e meno organico portiamo agli impianti, quindi meno ci costa. E dunque a Bressanone è già utilizzato questo sistema SITRA, da domani si inizierà ad utilizzarlo anche a Verbania. Ne abbiamo parlato anche con Maurizio Oldrini, che è il presidente del consorzio obbligatorio unico del bacino di Verbania. Quello che ha fatto scattare un po' tutto è il fatto che noi siamo alla continua ricerca di miglioramento nella raccolta differenziata, perché siamo come capoluogo di provincia il primo capoluogo in Italia come percentuale, e come bacino credo fa anche quello fra i primi posti. Noi raggiungiamo punte che superano anche l'80% di raccolta differenziata, con una media che si attesta intorno a quasi il 60%. Quindi noi siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci faccia migliorare e soprattutto risparmiare per l'utenza. Allora, siccome l'umido è una frazione del rifiuto che è costosissima per lo smaltimento, circa 120 euro a tonnellata, perché sono pesanti, è un prodotto pesante, quindi costa molto, ci siamo concentrati su cercare di diminuire le quantità di umido differenziato. E allora ci siamo così informati, abbiamo saputo di questa sperimentazione, anzi già ormai collaudata nella provincia di Bolzano, Trento, comunque nel nord-est, e ci siamo interessati per sapere come si svolgeva questo tipo di attività. E abbiamo deciso di fare una sperimentazione che durerà da un minimo di 6 mesi a un anno su un quartiere specifico della città, che interesserà circa 2.500 utenze, pare a 5.000 abitanti. E se poi la cosa funziona, abbiamo intenzione di estenderlo a tutta la città. Ecco, diciamo, voi fino adesso l'umido l'avevate raccolto col sistema del porta a porta? Col sistema del porta a porta, la pattumierina, col sacchetto di Mate Bio, oppure con il sacchetto di carta, però con un contenitore unico, grosso, dove venivano, specialmente per l'utenza condominiale, eccetera. Quindi ci dava problemi poi di odore, di sporcizia, infatti venivano lavati periodicamente, ma nonostante quello. Ecco, questo sistema avrebbe anche il vantaggio che il contenitore grosso, dove vengono conferite gli smaltimenti di appartamento, ha un sacco all'interno dello stesso materiale del sacchetto che viene dato all'utente, e quindi diciamo il contenitore rimarrebbe pulito. E questo è già un grosso vantaggio. E poi c'è il vantaggio economico, perché dovrebbe... E poi c'è il vantaggio economico perché il risparmio pare che si aggiri fino al 20%, ecco. Quindi per noi già raggiungere un 10% vorrebbe risparmiare qualche migliaia di euro, per cui sicuramente ci porterebbe comunque un vantaggio economico non indifferente. Ecco, quali sono i punti che vengono toccati quando si parla di risparmio in questo senso? Cioè, su dove, qual è la fetta che sulla quale si risparmierà maggiormente? Io sono uno di quelli che sostiene che la raccolta differenziata è comunque più un costo, provocatoriamente lo dico, che un risparmio, perché il cittadino sa che deve fare un grosso sacrificio e sa che non ha un grosso utile economico, perché anche differenziare costa, quindi diciamo che è un investimento ambientale. Per quel che riguarda l'umido, credo che la grossa novità di questo progetto, da come ho capito, è quella del fatto che col sistema anaerobico il rifiuto umido si essica più in fretta, più facilmente, e quindi il sacchetto ne contiene di più, diminuisce il peso del rifiuto umido, e quindi quando noi andiamo a conferire il rifiuto per lo smaltimento ne conferiamo di meno. E noi torneremo di sicuro a vedere com'è andata la sperimentazione a Verbania. Intanto siamo andati a vedere quali novità ci ha trovato Massimo Di Scienza, che la settimana scorsa è andato a MadExpo. Pensare a realizzare la città del futuro, più silenziosa, più sicura, più pulita, che consumi meno sia energia che spazio. È il cuore di Civitas, il progetto che ha caratterizzato l'edizione 2010 del MadExpo, il salone del design, dell'edilizia e dell'architettura che si è svolto la scorsa settimana in fiera a Milano. Nelle quattro simboliche vie di Civitas, la città perfetta, le aziende hanno esposto i prodotti più evoluti, dai serramenti con film fotovoltaico per la produzione di energia alle pareti e vetri antiesplosione, dalla pittura che non fa attaccare lo smog al cemento armato mangia inquinamento. Abbiamo chiesto a Pietro Gimelli, direttore generale dell'UNXAL, costruttore di serramenti acciaio, alluminio e leghe, se il sogno della città ideale è realizzabile. È un sogno che la tecnologia già rende assolutamente praticabile, e adesso per essere realizzabile ci vuole che, come dire, chi decide continui a decidere, per esempio per gli incentivi del 55%, per esempio per una legge sulla termica che mantenga come dire, le sue premesse, e dall'altra parte che ci sia la consapevolezza nell'utente e nel progettista che l'investimento di oggi è un investimento che sarebbe domani. Però il fatto che le premesse tecnologiche ci siano rende tutti un po' più ottimisti. Ottimizzare risorse e spazi a disposizione è un altro degli slogan delle aziende presenti al MADE. C'è chi ha pensato di installare pannelli fotovoltaici sulle pensiline da parcheggio per le auto, come la Renelectron di Carugate. Enrico Aresu, curatore del progetto. C'è la necessità di fare delle pensiline per i parcheggi, no? Perché fare delle pensiline tradizionali e non coprire queste pensiline invece con dei pannelli fotovoltaici, e quindi andare incontro a questo fabbisogno energetico che nel nostro paese, come in tutto il mondo, è sempre crescente, quindi con un inquinamento che è direttamente proporzionale allo stesso. E chi non ha spazio sul tetto può sempre produrre energia riparandosi dal sole, come ha intuito la KF, azienda del modenese che ha lanciato la prima tenda fotovoltaica avvolgibile, il presidente Massimo Romani. Essendo anche la prima tenda in assoluto, questa dà l'opportunità, oltre che ovviamente all'ombreggiamento, di essere combinata con il conto energia, che come si sa è quel finanziamento, diciamo, italiano, che una volta che superiamo il kilowatt di potenza finanzia ogni kilowattora prodotto. Questa è una tenda appunto da 1,012 kilowatt per rientrare in questo conto energia, e si ripagherà all'interno dei 10 anni, dei primi 10 anni, dei 20 anni del conto energia. È finalizzato principalmente a tutte quelle famiglie o nuove costruzioni dove impianti fotovoltaici erano preclusi. Protagonisti del MADE anche i materiali di costruzione alternativi. Dopo gli ottimi risultati in Abruzzo, dove è stato massicciamente utilizzato per la realizzazione delle nuove case post terremoto, e alla ribalta il legno. Paolo Ninatti, presidente Assolegno. I benefici fondamentali, secondo me, stanno nel grande comfort abitativo di questi edifici, tempi di realizzazione ridottissimi, possibilità di fare modifiche in futuro molto molto elevata. E è un materiale alla fine che costa come gli altri materiali, se non in qualche caso leggermente di più, ha tutta una serie di prestazioni più favorevoli, quindi il rapporto costi-benefici è assolutamente interessante. E poi è il grande comfort, perché essendo un materiale naturale, istintivamente noi con il legno ci troviamo a nostro agio. Infine spazio ai giovani architetti che hanno proposto le loro case ecologiche usa e getta. A vincere un terzetto di giovani veneti, ha convinto la giuria la loro idea di utilizzare le barriere antirumore come alloggi per i giovani visitatori dell'Expo milanese. Respiro termina qui, vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Vi ringrazio per l'attenzione, ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 14. Buona giornata da Cristina Carpinelli.